Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ehi, buongiorno! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Una società stolta e miope, quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti. Le pensioni di oro sono un'offesa al lavoro non meno grave, un'offesa al lavoro non meno grave delle pensioni troppo povere. Persona non è solo lavoro, noi dobbiamo pensare anche alla sana cultura dell'ozio, no? Di... la sana cultura dell'ozio. Quelle giornate in cui spegni il cellulare, saluti tutti e ti metti a guardare una puntata di Homeland, o due o tre o quattro o cinque. Che bello, bravo papa, sento già il nostro Oscar Giannino. Ma come, bisogna lavorare. Andate a farvi bagni, viene l'estate. Oh, bravo presidente, così Vincenzino, così si fa l'ozio. Andate a divertirvi, andate a rilassarvi. Riposatevi. Chiaro, semplice e chiaro. Per il resto poi non bisogna esagerare. Questo sì, ovviamente anche con l'ozio, un po' di lavoro e un po' di ozio. Eccolo qua, subito inizia la demagogia del Papa. No, cosa dovrebbe dire un Papa? Ammazzatevi di lavoro! La ricchezza va bene per tutti, le pensioni d'oro sono la via per la salvezza. Lavoro, lavoro, lavoro! Gli anziani si ammazzino di lavoro! Ambiente rilassante, riposante. Certo, come racconta il Fatto Quotidiano, ieri è successa una vicenda un po' strana all'interno delle mura vaticane. La gendarmeria vaticana ha fatto irruzione nell'ufficio, o meglio nella casa del palazzo dell'ex Sant'Uffizio, quello di Ratzinger, l'ex Inquisizione. È stato sventato un festino gay nella casa di un monsignore. Sventato, cioè, nel senso, mica è una rapina, diciamo, però è stato interrotto un festino gay a casa di un monsignore. Bocche cucite in Vaticano, titolo del Fatto Quotidiano. Vabbè, in tutto ci sono 17 gradi a Bergamo, signori, come ci dice Lidia. Cosa c'è? Il mare, alla pioggia, alla pioggia. Sarebbe la pioggia, fa notare Peter Bescapè. Sarebbe la pioggia, non il mare. Sarebbe la pioggia. Come dire, pirla. Ti ho messo il suono della pioggia. San Nicola la strada, 21 gradi, umido. San Nicola la strada, per favore. Che se non mi dite Enzo, grazie. A Ponte di Legno 10 gradi, dice Umberto. A Udine 15 gradi, mandi da Alessandro. E ragazzi, sono abbassate le temperature. Caserta, San Nicola la strada. Attimis Udine 16 gradi post tempesta. Com'è, meno male che non hai messo come sottofondo lo sceno reggae? Massimo, ma vengo lì ad Attimis a regolare la questione privatamente. Io sono andato in Giamaica a toccare il letto in cui è nato Bob Marley, perché solo per omaggiare il re del reggae. Tu mi dici, vabbè. A Triuggio 17 gradi, temperatura percepita, fai il bravo, 10 gradi, Giulio. Vabbè signori, nessuno ci ascolta dall'estero? Dall'estero oggi non c'è nessuno. 24 gradi a Custonaci, dove si è spostata la nostra Marie-Françoise. Monza non pervenuta. E a Cavaglià Biella 16 gradi. Vabbè, eccolo qua, è Mario comparsa, 18 gradi a Perth, dall'estero la nostra Chiara, 18 gradi a Perth, ma all'estero c'è anche Mariona di Nolfi. Mariona, eccomi. Ma dove stai? Sydney, Australia. No dai, mi stai pigliando per il culo. 14 gradi, io sono australiano, di no certo, questo lo so, questo lo so. Ma sai che ma straordinario, sei a Sydney in questo momento? Dove si discute del cardinale Pell, ti do la notizia in anteprima. L'indiscrezione sul Sydney Morning Herald di stamattina, che Pell è sotto inchiesta, cardinale, perché degli sapevo affari di Stato americani, per stupro. Anche stupro, sì. Stupro. Sono tre ipotesi di reati, sì, fatti degli anni 70, una vecchia inchiesta fatta dalla procura di Sydney. E questa domani è su tutti i giornali italiani. Grazie Marione che ce l'anticipi. Domani, esatto, vi do l'anticipazione direttamente dall'altra parte del mondo. Ma down è fantastico, under. Down Under. Dai, certo, sei Down Under, Sydney, una città meravigliosa. Ci sono stato anch'io, ma sai che ci ascolta sempre la nostra Chiara da Perth? Certo, non è proprio vicinissima a Sydney. Insomma. Non vicinissima, esatto. Non ci arrivi in macchina, non ci arrivi in macchina. Però potreste incontrarvi a metà, tipo all'Ayers Rock, strada, e fare una bel selfone, un bel selfone per i nostri non ascoltatori. Vedo l'ora, non vedo l'ora. Guarda, trattami bene la nostra Chiara, che è lì a Perth, è andata lì a vivere. L'altro giorno alla Wondy Night sono arrivati anche i suoi genitori, abbiamo fatto una foto. Adesso è una ragazza straordinaria. Ho scoperto che ha la sorella in Nuova Zelanda, sono due emigrate, due che portano... Ah, l'organizzazione criminale. No, smettila. Sì, con te. Hanno deciso di colonizzare l'Oceania, fanno bene. C'è margine per la criminalità. No, smettila, finiscila. Sono due persone stra per bene, due ragazze stra per bene. Allora, insieme a Mariona di Nolfi c'è il Angelo Maria Perrino, buongiorno. Eccoci, buongiorno a voi. Che è diventato bis direttore, ormai ragazzi, qua c'è, pur di avere due stipendi, due pensioni, pensioni d'oro, scherzo. Sì, in effetti, ma non c'è una questione di stipendio, lo stipendio rimane quello, vabbè. È dello stipendio di un giornale indipendente che non ha dietro affari italiani, le banche, sì, eccetera. È diventato anche direttore, diciamolo, di votaoggi.it, sito di sondaggi politici. E che ti ringrazio, sì, ieri è nato questo nuovo giocattolo, lo chiamo io, perché appunto abbiamo dato agli italiani la possibilità con Vota Oggi di scegliere tutti i giorni questo o quel gradimento sul tema dell'attualità della politica. Ottimo, però non si vota oggi, no, almeno questo si può. Abbiamo chiesto per esempio ieri se Renzi ha ancora la forza per restare leader, gli italiani stanno votando e il risultato è abbastanza sorprendente. Cosa e dico? Ogni giorno avremo la possibilità di discutere del tema dell'attualità. e di votare in gradimento al partito o al leader politico verificando gli scostamenti. È uno strumento che serve ad avvicinare il palazzo, la gente alla politica, visto che la distanza è somma. È divenuta abissale. Apriamo il Parlamento allora. Qua Marione, ti sono ragazzi, giunte voci di un Renzi in difficoltà, che è un po' lì down under? C'è l'intervista di Dario Franceschini ieri, che di solito quando si muove Dario è qualcosa che succede di significativo. Quando fece l'intervista per mollare Letta e passare con Renzi, cominciò il terremoto che portò alla fine al governo. Attenzione. Quindi ne parla tutta l'Australia, ne parla di questo. Quindi attenzione, insomma, attenzione. Qualcosa si è mosso di reale, tant'è che mi sembra, leggendo i giornali italiani, che insomma ci sia una bella arroccata dei vari lotti e compagnie. Attenzione, no? Titolo, così parlò Franceschini. Anche se adesso Franceschini non è determinante. Ma attenzione. Sposta i cattoliconi del PD, sposta le truppe cattoliche. Non ha più un peso determinante nella segreteria nella leadership del PD. Non conta più tanto. Vabbè, però al di là della politica. No, allora, sei in un punto di osservazione, Marione, senza saperlo, molto interessante, perché qui ci devi raccontare la visione australiana dell'immigrazione, no? Che spesso viene citata come, perché qui in Italia c'è il ministro Minniti che dice basta, dobbiamo chiudere i porti alle ONG. Ma sapete che a Malta, sapete quanti profughi ha accolto Malta nel 2017? Proviamo a sparare un numero, oggi lo dice la stampa. Zero, una bella otonda di giotto, Marione, zero. Vabbè, a Malta. Ricordiamoci che Malta ha la popolazione della metà di una circoscrizione di Roma. Ma zero, zero. Cioè zero vuol dire che c'è una politica dietro, vuol dire che proprio... Malta è uno scoglio, insomma. L'Australia è più interessante come modello, perché l'Australia ha una politica migratoria estremamente dura, feroce, al limite del fascismo, direi. Ha tenuto per mesi delle navi fuori dal territorio, facendole attraccare nelle isole del nord dell'Australia perché non arrivassero sul territorio australiano, sostanzialmente fregandosi della questione umanitaria. Sì. Certo, è una politica diversa che non ha a che fare con il vero problema che abbiamo in Italia, che è quella della capacità europea di assorbire un'immigrazione che comunque c'è. Certo. E questo qui è una cosa che non puoi eliminare. Cioè, l'Italia cosa fa? Fa il fronte e fa la battaglia da sola contro il fenomeno migratorio? Questo è il problema. No. L'Australia non hai, perché non hai l'Africa che ti sbarca direttamente sulle coste. No, infatti la battaglia da sola non la puoi fare. Puoi fare delle azioni. Devi costringere l'Europa a prendersi il carico del problema. Se ho letto bene, mi sembra che ci sia la chiusura dei porti per le navi straniere. Il vero problema, io continuo a pensare che siano le ONG, e questo è un dato di fatto, insomma. Sì. Beh, adesso non è che adesso anche tu non alimentare questa cosa, non è che siccome ci sono le ONG la gente parte, Cioè la gente si mette in cammino dal sud dell'Africa, dal centrale. Sapere che c'è una nave che ti porta e in qualche modo arrivi, incentivi le partenze, questo senza ombra di dubbio. Se sai che non arrivi, non parti. Se sai che arrivi, ci provi. Questo è l'elemento cruciale. Io continuo a pensare che al di là proprio delle famose inchieste sull'ONG, il problema è che in Italia si sa che se parti dalla Libia arrivi sul territorio siciliano. Sì. Questo è un dato di fatto. Se tu non sapessi questo, il livello di partenza sarebbe infinitamente minore. Mi sembra nelle ultime 48 ore ci sono stati qualcosa come 12.000. Ma questa è la polemica, Perrino, con le ONG. Ma fa bene Minniti a chiudere i porti, Perrino. Ho detto che bisogna capire se si può, perché sai, qua siamo in Europa, non è che è una minaccia, bisogna capire che succederà. Io penso che Minniti meriti un grande applauso, straordinario applauso. Finalmente qualcuno e qualcosa si muove, era ora che ciò accadesse. Dobbiamo sostenere questa posizione soprattutto rispetto all'Europa, che fino a questo momento se n'è altamente impippata della questione migranti, lasciandola sulle nostre spalle, e ora non siamo in grado più di gestirla. Sì. Cioè, rischiamo di provocare un'emergenza umanitaria in Italia, e dunque non si poteva farne a meno, quindi non è un colpo di testa. Sì. Detto emotivo, che non sono chiusi, è una minaccia, è un'idea. È una minaccia che richiede appunto all'Europa una condivisione, quindi è un ultimatum, diciamo. E ora aspettiamo che l'Europa risponda, perché veramente questo dimostra quanto l'Europa sia una finzione, quanto noi in questa vicenda dobbiamo far sentire la nostra voce, quindi bene, finalmente il ministro dell'interno, con le palle, come dicono Eccoli, Oxford. Eccola, come direbbero a Oxford, anche a Sydney. Ma tra l'altro, ma del Papa, cioè io l'ho messa all'inizio, ma guarda che qua, ma Marione, sei contento di questo Papa che dice Lozio, viva Lozio? Sì, molto argentino, molto Borges, no. Molto quartiere Palermo di Buenos Aires. Se sei mai stato a Buenos Aires capisci pienamente questo discorso di Papa Bergoglio. Ma la cosa più interessante è quella, no? È inutile, è stupido far lavorare gli anziani a lungo e non far lavorare invece i giovani. Questo lo dico. Vabbè, ma senti con quale cipiglio quasi sprezzante Adinolfi, che si riconosce più nella chiesa istituzionale, allora, quella tipo Papa Ratzinger, quella un po' più dura, trovo un discorso intelligente, ma di buon senso. Adesso non è che ha detto cose, no? Che sennò hanno illuminato al giorno la notte. Da Nobel per la pace. Far lavorare i giovani piuttosto che i vecchi. Sì. E poi l'ossio. L'ossio è bello, l'ossio fa molto buono. Fa molto buono. Fatevi una passeggiata a Buenos Aires quest'estate, ve lo consiglio, è uno dei viaggi più belli che si possono fare nella vita. Ma capito Mariano Adinolfi. Capito, Adinolfi va a giocare a Las Vegas, va a Buenos Aires, va a Sydney, il Papa Grillino. Sì, ho visto molto il mondo, sì, questo mi fa piacere. Posso morire domani avendolo visto tutto. Bravo, e questa è una cosa che ti fa onore. Bisogna viaggiare, bisogna esplorare, se no poi rimanete chiusi nelle vostre quattro mura e non vi aprite al mondo. Dobbiamo andare un attimo al traffico tra poco. Alino, dai, fanno il balabio, manda al traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Sei un grande Milan, altro che balle, vai avanti, grandissimo. Ma gioia mia, ma ce ne fossero di cretini così. Buona giornata. Buongiorno Milan, fatto di Fazio, è normalissimo che se lo tengono stretti a qualsiasi costo, perché i lecchini di Renzi incominciano a diventare pochissimi. Se va via questo, sarà difficile trovarne un altro pari a lui. Buongiorno Alessandro, Piazza Monumentale a Milano, fanno 24 gradi. E io non c'ho già più voglia. Buona giornata. Uno colto e anche bello, alla fine porta a casa la merce, no? Ma diciamo che il filosofo, se volesse, potrebbe, ma non è quella la sua priorità. Lo studio resta il suo orientamento definitivo, quindi l'ha presa sul se volesse potrebbe, probabilmente. Le perle del professor Fusaro, inzigato da David Parenzo sul rapporto tra lui e il sesso, vabbè, e le donne. Allora, siamo con Mariano Adinolfi, Angelo Maria Perrino. Perrino, non so se si è capito, ma Mariano Adinolfi ti ha dato il titolo che vedremo tra mezz'ora su affariitaliani.it, se non tra 20 minuti. Cardinale Pell indagato per stupro. Caspita, sì, certo, lo segnalo subito alla redazione. Cioè, com'è Marione, il Sydney, chi è che lo dice, il Sydney? È il principale giornale australiano, che è il Sydney Morning Herald. Il Sydney Morning Herald, capisci? La sua edizione online è un'inchiesta che sta dura da decenni, sono fatti negli anni 70, strano, perché oltre 40 anni. E devo dire la verità, una storia un po' strana, da tanti punti punti di vista. La cosa importante è che Bell è un cardinale di enorme rilevanza, responsabile degli affari economici della Santa Sede, quindi stiamo parlando del forse del numero 3 del Vaticano, insomma. Indubbiamente vi ritroverete la notizia esplosa, credo, quando i nostri colleghi faranno, si sveglieranno, un paio d'ore, mica Mariona Di Nolfi, che è già sul pezzo, che raffazzoneranno con il loro inglese un po' superficiale, ragazzi, ma è sprezzante proprio della categoria, è sprezzante del mondo, è sprezzante dei non juventini, è sprezzante di tutto, è sprezzante. Aggiunge all'Appendino indagata questa notte? Sì, l'Appendino indagata, vabbè, ma lì è una vicenda per cui l'Appendino bella con l'Appendino. No, ma perché Lì bisogna dire, è un atto dovuto, perché alcuni cittadini, per le lesioni riportate dopo la finale di Champions League in Piazza San Carlo, l'hanno denunciata, dicendo: aggiunge alla Sciarrelli, un'altra indagata eccellente, certo non come il cardinale. Vabbè, la Sciarrelli che ieri non ha detto mezza parola su questo caso Woodcock. Però vabbè, insomma, allora la questione migranti l'abbiamo sistemata. Minniti fa bene, questo almeno dicono i nostri. Ma io non ho capito a Di Nolfi se Minniti fa bene, secondo te, cioè si possono chiudere i porti, visto che non è... Guarda, io devo capire bene la declinazione della proposta, che mi sa molto di titolo sul giornale e poco di sostanza, perché se ho capito bene parla di chiusura dei porti alle navi straniere. Sì, alle navi dell'ONG, dai, su, alle navi dell'ONG. Ho capito, perché le ONG battono bandiera estera. Alcuni sì, in mare. Bisognerebbe capire bene qualcosa questo significherebbe dal punto di vista concreto. Io continuo a pensare che il problema serio sia il blocco navale, il territorio umanitario. Se non fai questo sulle coste libiche non risolvi la questione, lo devi fare a livello delle coste libiche. Sì, ma ragazzi, devi, però la risolvi la questione. Ma guarda che ieri titolava Avvenire, giustamente, 52 trovati morti in Niger nel deserto abbandonati senza acqua. Tu li blocchi lì, ma quelli muoiono più sotto, cioè non è che non partano nella speranza, cioè muoiono più sotto. Se non arrivano non partono, il problema nostro è che li stiamo facendo arrivare tutti, stanno arrivando tutti, questo è il problema serio della vicenda italiana, cosa che non riguarda la costa spagnola, perché se hai mai citato Malta non capisco che non ci sia Spagna, perché non ci sia i porti greci, cioè vengono da noi, perché da noi arrivano. Questo è il vero tema della questione. Vabbè, però Marione, lì dall'Australia mi dici, avrei visto le immagini anche tu dei gay pride eccetera, sei scappato mica per quello? No. Resisto ancora un po' ai gay pride, non ti preoccupare, sono tra quelli che esporrebbero lo striscione di Latina, diciamo. Le striscione di Latina, quello ti sei perso lo striscione di Latina, quello viva la F, si dice figa, dai, non avere paura, si può dire, sì, anche in tempo di dittatura gay si può dire viva la figa, guarda, è una cosa legittimata, diciamo. Sì, si può dire, lo facciamo per i nostri ascoltatori, per la volgarità, per la volgarità. No, ma che volgarità, è una cosa bellissima, non leggo volgarità, c'è la volgarità al gay pride, mi pare, ma vede sempre... Diciamo tranquillamente superata quella volgarità. Perrino, tu sei uno di quei direttori che al Gay Pride mette le belle foto tutte con le pagliette in modo... Ma quale pagliette? Milan, le pagliette. Le creste colorate. Certo, loro si prestano molto. I culi di fuori, cosa devo dire? Loro si prestano molto a questa... curano molto l'estetica quando fanno queste manifestazioni. Bisogna capire se è quell'estetica, insomma, o buon gusto, però certo, sì, ma no, quando per esempio si dipingono spesso sono simpatici da ritrarre. D'altra parte la rete vuole le immagini, oramai la parola è in crisi. E quindi un bel click su un bel culo di fuori e le creste colorate. È fatto il gay pride. Viva la libertà. Porca miseria, pensavo che ribadissi un attimo. Una sola volta. Aveva lavorato su quello slogan, vi ricordate? Diceva la patonza deve girare. Eccolo lì, sì, certo, come no. Mitica intercettazione. Adesso è diventato bravo.